rovine dalla luce del sole. Ogni qualvolta che ne avrai bisogno, fammi uno squillo, basterà anche un segno. Ti proteggerò dalle bufere, dalle intemperie di chi spezza le mani, dagli scorpioni del deserto, dalla lava dei vulcani, dalle sciarpe di filo spinato, dalle bestemmie che non hanno fiuto, dagli orizzonti senza tramonti, dal silenzio dei silenzi, dal bitume dei senza senso. Ti proteggerò anche dal vento che soffia freddo da queste parti. Per te avrò pantaloni corti e le bugie lascerò in un forno, e amerò anche il tuo inverno. Lascerò che sia la tua innocenza a colorare ogni mia indecenza, un antipasto, un lenzuolo di lino con cui avvolgere il nostro destino. Sarò coperta e anche il tuo guanciale, un bacio in bocca, un granello di sale, un tulipano che profuma di rosa, un aeroplano che sa fare le fusa. Ti porterò al di là del limbo a farti fare un bel controcanto, che tu lo sai, io non so ballare, al posto mio danzano parole, che le parole non valgono niente, quello che conta è che tu sei il mio ventre, la mia ragazza, il mio collare, il mio posto davanti al sole, su nelle scale ti porto amore, a farti luce, a farti vedere. Proteggerò dalle grigie sere, dalle albe che non hanno aurore, dalle valigie rosse e anche quelle nere, dai libri senza vita e senza storie, dalla mia inutile gelosia, lastra di ghiaccio dell'Andalusia, dalla polvere del deserto, sotto la neve, anche sotto un tetto, ti porterò al di là del limbo, a farti fare un bel controcanto, che tu lo sai, io non so ballare, al posto mio danzano parole, che le parole non valgono niente, quello che conta è che tu sei il mio ventre, la mia ragazza, il mio collare, il mio posto davanti al sole, su nelle scale ti porto amore, a farti luce, a farti vedere.